Ecco, noi Adriana Migliucci per parlare del suo progetto di storytelling partecipato Stesi dalle Tesi, la festa del bel sapere al Centro Culturale Boncompagni 22 il prossimo 25 maggio. Adriana, benvenuta. Ci Benvenuta, buongiorno. racconti un po' di cosa si tratta? Sì, Stesi dalle Tesi è un'idea innovativa di festeggiare intorno ai nostri saperi, festeggiare le nostre, appunto, sono delle feste di laurea un po' particolari e anche a distanza di molti anni da quando ci siamo laureati. Sono degli incontri aperitivo a base di tesi di laurea, invitiamo ogni volta 5 persone diverse, di diverse età e con diversi saperi, e mettiamo in gioco i loro saperi in mezzo al pubblico. Quindi da un primo momento formale in cui ci raccontano a braccio la loro tesi, la storia che c'è dietro quella tesi, man mano li intrecciamo con i saperi che sono nascosti tra il pubblico e quindi appunto in un'area molto festosa e molto conviviale ci scambiamo saperi e storie. Com'era nato tutto? Il tutto è nato tanto tanto tanto fa. Nel 1998 sono andata a vedere un film francese, una commedia molto bella che si intitola Parole, parole, parole di Alain Resnais, in cui la protagonista si deve laureare con una tesi improbabile sui contadini francesi, era appassionatissima di questa tesi e più lei studiava questa tesi, più tutti la allontanavano come una pestata, perché lei dedicava tutta la sua vita a questa tesi. Allora, sarà che mi ero laureata da 15 giorni, sarà che il film era veramente scritto molto bene, mi ha iniziato a frullare un po' questa idea, ma che ci facciamo di queste tesi di laurea dopo che ci dedichiamo tanti mesi, alcuni anche tanti anni? Ci ho pensato e man mano ho elaborato questo format. Nel 2014 l'ho proposto a Biblioteche di Roma che l'hanno subito sposato e quindi abbiamo iniziato a farne un appuntamento al mese in ogni biblioteca di Roma e da lì poi ha preso un po' il piede, lo facciamo anche e soprattutto ci piace farlo anche in posti non convenzionali per la cultura, ma in posti dove ci si ritrova appunto per stare bene insieme, parchi, piazze, locali serali, stabilimenti balneari quest'estate, sono stati nel 2017 in Salento, in Riva al Mare. Insomma, c'è sempre un posto giusto, un momento giusto per stare insieme e per condividersi i propri saperi. Oh, Adrianna, mi raccontavi prima, la serata è piuttosto articolata, ce la descrivi un po'? Sì, iniziamo con dopo ovviamente una mia breve presentazione del progetto e delle sue finalità, iniziamo con un gioco rompighiaccio delle identikit in cui mettiamo un po' così a proprio agio sia il pubblico sia i cinque protagonisti e protagoniste a individuare chi ha scritto cosa, quindi attribuiamo alle cinque persone protagoniste la propria tesi attraverso un gioco rompighiaccio, diamo poi loro la parola, ognuno con tempi molto stretti, per raccontarci il succo proprio della loro tesi e della storia che c'è dietro quella tesi, e poi inizia il momento dell'aperitivo, un po' uno speed date con i laureati in cui dividiamo il pubblico in gruppetti e lo mettiamo appunto a godersi l'aperitivo scambiandosi curiosità e saperi intorno a quelle cinque tesi. E dopodiché diventa protagonista il pubblico attraverso un gioco in cui ognuno di loro può raccontarsi un po' di sé e poi viene fuori un grande gomitolo colorato e partiamo con le connessioni tra una tesi e l'altra, tra una storia e l'altra, tra un sapere e l'altro e quindi costruiamo un grande ordito di tutte le chiacchiere che ci siamo fatte in quel paio d'ore. Stringiamo connessioni e collaborazioni che poi insomma so che continuano anche ben oltre le 2 ore dell'incontro, so che sono nate anche storie d'amore. Incontri di Stesi dalle Tesi. Stesi dalle Tesi perché appunto da un'accezione un po' negativa siamo un po' tutti rimasti stesi dalle tesi perché magari ne abbiamo fatto ben poco di questo nostro sapere, poi invece durante queste 2 ore appunto ci ritroviamo stesi proprio connessi da questo grande gomitolo colorato e quindi vediamo come ognuno è interconnesso all'altro e meno male che appunto siamo tutti interdipendenti grazie ai nostri saperi che più sono messi insieme più sono interessanti, importanti e costruttivi. Mi dicevi di altre edizioni, non è la prima, e come si sta sviluppando nel tempo? Allora, ogni mese facciamo un appuntamento in giro per Roma, cerchiamo di toccare un po' tutti quanti i quartieri, in alcuni punti ritorniamo perché ci siamo trovati particolarmente bene perché ci chiedono di ritornare, proprio come il 25 maggio, che saremo in questa bellissima situazione che è il Centro Culturale Boncompagni 22. È un'associazione costituita da attuali studenti, ex studenti, professori e genitori di liceo Righi, che aprono la scuola appena suona la campanella, quindi appena il liceo, diciamo, chiude le proprie porte agli studenti, dalle 2 in poi la scuola invece è sempre aperta a tutta la cittadinanza tramite diverse iniziative, essendo, speriamo che il 25 maggio sia finalmente bel tempo, saremo nel giardino del Liceo Righi, che è un villino meraviglioso, Liberty, per chi non lo conosce, e c'è questo giardino all'interno che è ancora più bello, e quindi sfrutteremo questo bello spazio stando così insieme. E poi continueremo altri mesi, ogni mese, il 24 giugno faremo invece specialità al termine dell'Open Day della rete al femminile, una rete di libere imprenditrici di freelance di Roma, e saremo inculcate a Montesacro, poi ci sposteremo appunto nell'estate anche in posti estivi, e lo stiamo sviluppando anche con, diciamo, soluzioni digitali e audiovisive, perché insomma il nostro intento è quello di creare una vera e propria biblioteca digitale vivente. Ok. Senti, hai anche uno spazio internet per saperne di più? Assolutamente sì, stesidalitesi.it è il nostro sito dove ognuno può candidarsi con la propria tesi, c'è una call, un modulo sempre aperto, dove si può raccontare appunto la propria tesi, la propria storia, e viene di volta in volta invitato a diversi eventi. Oppure può ovviamente trovare le date in programma, suggerire dei luoghi in cui fare stesi dalle tesi e soprattutto mettersi in contatto diretto con gli stesi dalle tesi che sono già diventati protagonisti in tutti questi eventi. Quindi può conoscere le loro storie e può contattarli direttamente se ha bisogno o se ha interesse per i propri studi, per il proprio lavoro, o semplicemente perché da quello che legge gli stanno simpatici. Benissimo. Adriana, ti ringrazio. Ricordiamo l'appuntamento con Stesi dalle Tesi, la festa del bel sapere al Centro Culturale Boncompagni 22 il 25 maggio. Un abbraccio e un ringraziamento ad Adriana Migliucci che lo cura e a presto. Grazie a voi, a presto. Speriamo di vedervi anche presenti. Ok. Ok, ciao ciao.